Buonasera, dottore. Buongiorno, dottoressa. Pronto? Sì, sì. Cioè, ci siamo un po'. Ci siamo un po'. Qua siamo dottoresse, infermiere, sì, giornaliste, conduttrice. Mauro. Sì, buongiorno, salve, ascolti, niente. Bene, direi che è importante. Buongiorno, dottoressa, grazie. Ma adesso non so, dipende. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Arrivano i buoni, arrivano, finalmente hanno capito che qualcosa qui non va. Nicoletta, se arrivano i buoni, quando arrivano i buoni dovrebbero accendersi solo delle belle speranze, sei d'accordo? Assolutamente sì, se poi sono anche belli. Ecco, in questo caso non sono né tanto buoni né tanto belli, perché dai buoni possono arrivare anche delle belle delusioni. Noi stamattina ci riferiamo ad una categoria speciale di buoni, ai buoni postali fruttiferi, uno strumento a cui tanti italiani si sono affidati e si affidano perché danno sicurezza e in alcuni casi anche la promessa di buoni rendimenti. Purtroppo però di recente molti consumatori e risparmiatori sono rimasti delusi quando, arrivati alla scadenza del proprio buono, le poste hanno proposto la liquidazione di cifre nettamente inferiori a quelle che si aspettavano. Parliamo di buoni che promettevano, sottoscritti un po' di tempo fa, dopo 9 anni e 6 mesi, di ottenere addirittura il doppio della cifra investita e dopo 14 anni addirittura il triplo. Qualcosa però sembra essere andato storto, ci sono andati di mezzo decreti, timbri, comunicazioni apposte negli uffici postali, comunicazioni riportate sul retro del buono e in mezzo a tutto questo cittadini ovviamente molto confusi. Oggi proviamo a vederci un po' più chiaro, a spiegarvi la vicenda in modo semplice, cercando di capire insieme cosa si può fare. 800 24 00 24, iniziate a prenotarvi se vi siete trovati di fronte ad una delusione da buoni postali. Oppure se a deludervi è la vostra voce, Deborah, sì, non guardarmi così perché non fare battute. Sei un pochino, sei un pochino giù di voce. Sì, però oggi devo dire che è una puntata che me la godrò proprio perché è una puntata che casca a fagiolo. Sono in buona compagnia, soprattutto in questo periodo dell'anno. Spesso la voce ci pianta in asso, si abbassa all'improvviso, diventa roca, ma non solo. Altre volte la voce ci delude perché non ci piace, non ci rappresenta, è stonata. Ne vorremmo una diversa, ci piacerebbe più bassa, più calda, più profonda, più armonica. Insomma, vorremmo cambiarla. Allora, se vi trovate in questa condizione, vi sembra che la vostra voce non vi presenti in modo adeguato, iniziate a chiamarci 800 24 00 24, ma lo stesso numero, come sempre, vale anche per chi invece, più che del suono della voce, vuole occuparsi del benessere, della salute delle proprie corde vocali. 800 24 00 24, ma potete anche scriverci al 349 238 6666 e seguirci su Facebook e su Twitter. Allora, l'idea di questa puntata, almeno per quello che riguarda la parte di denari, come dire, arriva dalla storia di un'ascoltatrice proprio delusa. Qualche settimana fa abbiamo ricevuto una mail che iniziava così: care Deborah e Nicoletta, vi interpello per avere una dritta, mi trovo in questa situazione. Nell'aprile del 2001 ho contratto un buono postale fruttifero serie AF, avevo investito l'equivalente di 25 milioni di lire, eravamo ancora in lire in quel momento. Ad aprile dell'anno prossimo, mese in cui il buono giunge a scadenza, secondo i miei calcoli dovrei incassare 38.000 euro lordi. E invece Lorella, buongiorno, da Pistoia, vuole proseguire lei? Buongiorno. Buongiorno. Sì, grazie prima di tutto per l'interessamento. Sì, dunque le cose sono andate un po' come sta raccontando lei. Tengo a precisare che comunque prima di fare questo investimento io mi ero consultata, anche se era una piccola cifra, comunque mi ero consultata con un istituto finanziario, uno assicurativo, per poi scegliere, aver avuto la buona idea di scegliere la proposta di Poste Italiane. In effetti Buonapostale è di quelli che dopo 9 anni e 6 mesi dovevano raddoppiare e dopo 14 anni triplicare. Io con questo buono in mano, fra l'altro, sono tornata alle Poste un anno dopo, nel 2002, unicamente per chiedere se, visto che avevamo fatto il passaggio con la lira, non fosse stato necessario trasformarlo in euro. Certo. Però mi dissero che tutto doveva restare così, stia tranquilla, venga alla tutto scadenza. In automatico. Sì, è tutto in automatico, venga alla scadenza e prenderà il doppio. Io mai mi sarei immaginato che ogni tanto dovevo andare alla Posta a vedere se avevano affisso qualcosa che riguardava i buoni postali, anche perché insomma la Posta, se va male, ci vado una volta l'anno. Insomma. Ecco, quindi per andare subito alla sintesi, Lorella, il suo buono giunge a scadenza nell'aprile dell'anno prossimo, se non ho capito male. Quanto le vorrebbe restituire Poste Italiane? Allora, aspetti, perché a dire la verità i 9 anni e mezzo sarebbero già arrivati nel 2011. Tant'è che io andai, mi ripresentai all'ufficio postale per verificare che non ci fossero stati degli adempimenti da espletare, avendo intenzione di portarlo al 14° anno, ovviamente, salvo necessità impellente. A quel momento lì io mi feci fare una situazione e mi dettero un foglietto in bianco dove non c'è scritto nemmeno Poste Italiane, eccetera, e c'erano scritti che mi sarebbero stati liquidati 17.000 euro circa all'ordo delle tasse. Che sono, diciamo, 33 milioni di vecchie lire. 33 milioni di lire, sì. Beh, sì, quindi da 25 quelli. Milioni a 33 milioni dopo 9 anni e mezzo. Insomma, forse se lo davano a finanziaria erano capaci anche loro di fare una cosa. Con gli ultimi tempi, Lorella, non lo so. Comunque, la promessa era quella. Perché io poi mi domando, ma se avessi contratto al contrario io un debito con Poste Italiane, dove sul titolo era scritto che dopo quel periodo avrei dovuto pagare, eccetera, avrebbero preso quel che gli avrei dato oppure avrebbero preso quello che era scritto? Lei ha ragione nel dire, noi avevamo pattuito un contratto, c'era una promessa, per quale motivo? Allora, adesso la situazione qual è, Lorella, per andare subito al nostro esperto? La situazione è questa: io ho la scadenza dei 14 anni nel prossimo aprile, sono ferma perché da Ariana mi hanno mandato a Pistoia, da Pistoia mi hanno ascoltato un paio di volte dicendo che avrebbero mandato la pratica a Roma, la persona con cui ho parlato diverse volte a Pistoia è stata trasferita e quindi sono passati 4 anni e io brancolo ancora nel buio. Perché adesso quanto le ridarebbero sempre questi 17.000 euro? Sono rimasti lì infruttiferi. Allora, Lorella, grazie, cerchiamo di capire qualcosa di più. Credo che questa situazione, peraltro, la accomuni a quella di altre di molti altri risparmiatori. Quella che ha citato, quella nella quale che ha sottoscritto appunto Lorella, è una serie di buoni postali, a quanto pare molto discussa. Se fate un giro su internet, coinvolge, appunto, lo dicevamo con Nicoletta, molti risparmiatori sottoscrittori di questi strumenti che incassano a scadenza, a quanto pare, molto meno di quanto promesso. Cosa è successo? Cerchiamo di chiarirlo con Alessandro Pedone, un amico di Cuore Denari, responsabile tutela risparmio di Aduc, oltre che consulente finanziario indipendente. Buongiorno Pedone. Buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ben ritrovato intanto. Intanto forse vale la pena fare un po' di ABC e di spiegare che cos'è un buono fruttifero, poi andiamo alla situazione in cui si trovano questi risparmiatori. Pedone. I buoni fruttiferi sono dei titoli emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, cioè un ente statale, quindi sono dei titoli garantiti dallo Stato, ma collocati esclusivamente da Poste Italiane. Hanno la caratteristica di garantire sempre la restituzione del capitale e gli interessi maturati senza essere soggetti a oscillazioni di mercati, cioè sappiamo predeterminatamente quanto andremo a prendere ad una determinata data, quindi sono titoli tipici per persone che non vogliono assolutamente rischiare. Prendersi dei rischi. Per i prudenti. Esatto, assolutamente. Pedone. Tant'è vero che sono molto diffusi tra i pensionati, per esempio, e comunque appunto tra risparmiatori che hanno un profilo di rischio assolutamente basso. In tempo c'erano pochi tipi di buoni postali, sì, no Pedone? Adesso erano semplicissimi, adesso si sono un po' diversificati di più, ma comunque restano una struttura a parte, un tipo in particolare legato a delle cose azionarie che non ha avuto neanche molto successo, comunque restano anche ancora abbastanza semplici. E ci sono varie tipologie in base alla data, a chi si rivolgono, quando si possono riprendere, eccetera, e ciascuna tipologia ha delle serie. Le serie sono appunto all'interno di quella struttura di data, scadenza, eccetera, sono quelle che indicano i rendimenti, quindi ad una determinata serie si associa una struttura di rendimenti. Nel caso specifico di Lorella, che ha spiegato che ha un bono postale fruttifero serie AF, questa sigla identifica... Era un tipo, un classico buono ordinario, cioè sembrano i biglietti della lotteria, vero Pedone? Cioè il codice della... non dovrebbero essere, non è così, così. No, direi di no. Dovrebbero essere il contrario della lotteria, nel senso che qui si hanno solo certezze, nella lotteria è tutta una fortuna, mentre qui si dovrebbero avere solo certezze, salvo... No, io mi riferivo solo al codice, non volevo fare battute di questo tipo. Tra l'altro, esattamente come stavamo dicendo poco fa, giudicare dalle telefonate e dagli ascoltatori che si stanno già prenotando all'800 24 00 24, vedo che effettivamente questa delusione coinvolge e monta molti ascoltatori. Allora, quindi continuate a chiamare. Quanti risparmi avete scelto di impegnare con Post? Anche voi avete in mano un buono fruttifero da cui vi aspettate un rendimento molto sostanzioso e poi invece vi siete trovati di fronte ad una delusione come quella di Lorella? 349-238-6666 per gli sms. Tra l'altro, Nicoletta, possiamo anche ricordare quanti italiani hanno scelto risparmio postale. Tu ne hai parlato la settimana scorsa in occasione della giornata mondiale, del risparmio. Tu che non cosa? C'eri e no. Noi abbiamo parlato della giornata mondiale del risparmio in una bellissima puntata. Ecco, quanti risparmi degli italiani a Poste? Questa è una domanda trabocchetto per me che non ce l'ho, puoi dirlo tu. Allora, Poste Italiane ha proprio diramato in quell'occasione un comunicato in cui quantificava per il primo semestre di quest'anno uno stock di buoni e libretti pari a 320 miliardi di euro. Poste parla di sé come della cassaforte degli italiani e non manca di sottolineare la massima garanzia anche per i risparmiatori che scelgono i buoni fruttiferi postali. Eccola qua. Chi? No, la Debora con i dati perfetti, ecco. Precisi. Io sarei andata a spanne, avrei detto, vabbè, insomma, devo dire, vedi, Carmelo ride perché lo sa che io vado un po' a spanne, ma è tornata Debora e siamo precisi. Allora, tra l'altro, per cercare di capire perché Poste Italiane adesso dice a Lorella e a molti altri che incasseranno meno di quanto promesso, dobbiamo ricostruire un po' una vicenda che Alessandro Pedone risale al 1986. Ci racconta un poco cosa è successo in quell'anno? Sì, allora, giusto per fare chiarezza, perché in realtà questa specifica problematica di Lorella non riguarda la cosa dell'86, però facciamo un po' di chiarezza, perché questo problema di chi ha un buono e poi si vede proporre un rendimento diverso dall'attesa c'entra anche questo aspetto. Nell'86 ci fu un decreto che istituiva una nuova serie di buoni postali e arbitrariamente modificava tutti i precedenti buoni postali con le condizioni della nuova serie istituita. Questo chiaramente ha creato tanto scompiglio, tantissime proteste, come è giusto che ci siano, però purtroppo per le condizioni di allora, che non sono più quelle di oggi, quindi oggi questa cosa non sarebbe più legale, però allora era legale, ci sono state tante cause, siamo andati in Cassazione fino alla Corte Costituzionale che si è espressa, e questa problematica purtroppo non ci si può fare nulla, quindi chi ancora, ora sono pochi che hanno quei titoli emessi prima dell'86, ma chi, se ci fossero ancora, quel caso non si può assolutamente fare nulla. Non è però il caso della signora che di cui ci occupiamo oggi. Perché questo è un altro tipo di problema, non so se vogliamo parlarne. Parliamone subito, no? Così almeno vediamo di capire, di chiarirlo sia a Lorella e magari agli altri ascoltatori che in questo momento hanno lo stesso problema con Poste Italiane, un buono postale fruttifero della stessa serie. Sì. La buona notizia di Lorella è che lei rivedrà i suoi soldi attesi, io sono ragionevolmente sicuro su questa cosa per l'esperienza che abbiamo fatto su altre situazioni del genere, perché il caso di Lorella non è un caso di legge. Prima parlavamo di una legge che cambiava le carte in tavola in maniera veramente clamorosa, che oggi non sarebbe più possibile, però arbitraria ed unilaterale, certo. È lo Stato e non ci possiamo fare nulla. Il caso di Lorella invece è un banalissimo errore che siccome, come abbiamo visto, i buoni postali sono veramente moltissimi, milioni e milioni, quindi in milioni e milioni ci possono capitare anche qualche migliaia di casi di errori e forse anche qualche anche di più, e questo è uno dei casi delle errelle. Cosa succedeva? Che nel momento in cui cambia una serie postale, quando ancora i buoni erano cartacei, oggi è tutto dematerializzato, sì, quindi non capita più, quando ancora i buoni erano cartacei cambiava la serie, ma presso gli sportelli postali avevano ancora i fogliettini della vecchia serie, ai quali gli impiegati, in attesa che arrivassero i fogli nuovi con le condizioni aggiornate, dovevano applicare un timbro che riportava le condizioni della nuova serie, invalidava quello che era scritto nel buono postale e riportava le nuove condizioni. Quindi quel famoso foglietto di cui ci ha parlato prima Lorella le dà il diritto di avere la totale restituzione del suo investimento? Nel momento in cui l'impiegato postale commetteva un errore e non applicava questo timbro, da un punto di vista legale, per la signora Lorella valgono le condizioni che stanno scritte. Il fatto che l'impiegato abbia commesso un errore non autorizza adesso le poste a, come dire, riversare questo errore sulla signora Lorella, che in buona fede ha fatto le sue scelte, ha detto questo mi offre queste condizioni, questi altri me ne offrivano quest'altro, e le condizioni proposte in questo libretto sono migliori, in questo buono sono migliori, ho scelto legittimamente questo. Quindi le poste non possono adesso dire no, è stato un errore, in realtà in quella data in cui lei l'ha sottoscritto le condizioni erano cambiate, non erano quelle riportate, perché la signora Lorella giustamente non sapeva di queste nuove condizioni e ha sottoscritto con quelle condizioni. Quindi in questo caso, diverso da quello dell'86, in questo caso la signora Lorella ha tutto il diritto di rivedere i soldi che si è accettati. Quindi che cosa le facciamo fare? Lorella, tra l'altro, è ancora in linea? Sì, sono ancora qui. Ha sentito le istruzioni per l'uso di pedone? Sì, cosa farà adesso? Cosa farà? Se io sono convinta, se torno all'ufficio postale, o che sia qui a Ariana o che sia a Pistoia, sicuro mi diranno che mandano la documentazione a Roma e io starò a aspettare. Considerato anche che non mi ricordo, ma mi sembra, Debora, che dopo 5 anni, se nessuno richiede indietro il controvalore del titolo, il titolo è completamente perso. Adesso sono 10 anni, sì, aspetti, no? Un attimo, per incassarlo. Perché pedone riguarda anche il buono fruttifero postale, riguarda la disciplina di va a finire nella disciplina dei conti dormienti. Lorella si è molto attivata in questo periodo, quindi non è che si può dire che possa cadere in prescrizione. Non abbia paura di questo. Cosa le suggerisce di fare, pedone? Allora, la cosa più semplice che può fare, molto visto che è anche di Pistoia, può semplicemente venire a Firenze da noi e gli seguiamo la cosa noi, non c'è bisogno di un avvocato. In genere, però, al di là, quindi la signora Lorella è sistemata, stia tranquilla perché non c'è nessun tipo di problema. Speriamo, finché non vede tutti i suoi soldi, Lorella ancora non è tranquilla, giustamente. Giustamente, ma io con l'esperienza che abbiamo su questa cosa mi posso sentire di rassicurarla. In genere, per tutti invece gli ascoltatori che ci stanno sentendo, quando è un problema di questo tipo, quindi quando il problema è che l'impiegato non ha messo il timbro giusto, quindi è un errore delle poste, quando c'è una cosa di questo tipo, noi abbiamo sentenza di Cassazione a sezioni unite, per chi non è un tecnico di queste cose, è come dire il massimo livello della giurisprudenza, quindi è paragonabile ad una legge, diciamo. Il giudice di tutti i giudici. Il giudice di tutti i giudici e le sezioni unite, cioè quando tutte le varie sezioni della Cassazione, diciamo, prendono un punto, un orientamento unico. Quindi abbiamo amplissima giurisprudenza su questa cosa di massimo grado, e abbiamo anche l'arbitro bancario e finanziario, che è chiamiamo un istituto di conciliazione, per cui non c'è bisogno di un avvocato per rivolgersi, quindi niente spese grandi, soltanto minime spese, diciamo, amministrative. È un pochino lento, ma sempre molto più veloce rispetto alla giustizia ordinaria, diciamo. Ed è vincolante, quindi e questo istituto su questo specifico punto ha sempre dato ragione, ovviamente, al cliente delle poste, che si ritrova in mano con un titolo che dice determinate cose. Benissimo. Che le poste sono obbligate ad onorarlo. Allora, adesso abbiamo chiarito la situazione di Lorella, che teoricamente dovrebbe essere nella piena ragione e quindi nel diritto di avere indietro tutto il suo investimento. Insomma, iniziale. Avrà il cuore un pochino sollevato, no? Ecco. Dovrà alzare un po' la voce con le poste, sperando naturalmente che non le faccia male. Cuore e denari. time that we spend together. I won't fuss, I won't fight, trying to make you mine. You know I'm not that kind. Vedi, si è beccata anche lei la laringite. D'altronde è come tutti noi, eh. Un colpo d'aria e via. E boom, così Anastasia, che aveva programmato a Roma e Firenze due concerti, ha dovuto rinunciare. Ci andava anche Alessandro Pedone, hai visto a Firenze? Dopo, chissà. Dopo glielo chiediamo. Sarebbe andato? A sentirla? Perché no? Di corsa, come si dice, no? E non lo dico a caso. Magari aveva bisogno di una consulenza per il suo notevole risparmio, immagino. 800 24 00 24, parliamo della voce, a volte ci pianta in asso e può essere colpa della laringite, a volte ci delude perché non ci piace. Allora, è il nostro numero verde, fate sentire la vostra voce, il nostro esperto vi dirà se la state tenendo bene, se la state sforzando e che cosa dovete fare per cambiarla se non vi piace. Quindi vi aspettiamo. È stata quella delusione in più. Non dico che sei stata proprio. Una delusione non da poco, quella di vedersi restituire 17.000 euro dopo un investimento di 14 anni, quando l'aspettativa era di averne 38.000. Non è proprio la stessa cosa. È la storia della nostra Lorella, di cui abbiamo parlato all'inizio, aprendo la puntata con la sua testimonianza. Voi come vi sareste comportati? Avreste comunque accettato la cifra? A chi vi sareste rivolti? 800 24 00 24. Raccontateci se anche voi avete avuto brutte avventure con i buoni fruttiferi postali. Ovviamente qualche ascoltatore dice: ma perché non avete chiamato Poste? L'abbiamo fatto ieri pomeriggio, signori di Poste Italiane hanno gentilmente erano declinato. Senza voce, dai, dici? Tutti c'è stata questa epidemia però ci hanno mandato questa risposta e noi ve la facciamo ascoltare. Per un errore manuale è stato consegnato alla cliente un buono riportante i rendimenti della serie AF, quando la stessa non era più in fase di collocamento. I titoli in questione, emessi ad aprile del 2001, appartengono a tutti gli effetti alla serie contraddistinta dalla sigla AA1, istituita con apposito decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000. Il decreto, oltre a istituire tale serie, ha introdotto una nuova normativa in materia di buoni fruttiferi postali. Nello specifico, l'articolo 6, Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori, dispone che Poste Italiane deve esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, da consegnare ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Dalla data di entrata in vigore di questo decreto, per i rendimenti e le condizioni praticate sui titoli non si deve più far riferimento alle tabelle poste sul retro dei titoli stessi, ma ai fogli informativi predisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di organo emittente, che oltre ad essere affissi in tutti gli uffici postali, venivano e sono consegnati ai sottoscrittori all'atto dell'emissione dei buoni. Quindi, per i titoli emessi dopo l'introduzione del foglio informativo, come quello in esame, la policy aziendale non prevede il riconoscimento della differenza al cliente in considerazione del fatto che i sottoscrittori sono stati messi al corrente dei rendimenti vigenti all'atto dell'emissione dei buoni fruttiferi postali, attraverso la consegna del foglio informativo. Devo dire che la voce è bella, non è quella delle Poste, no, ma del nostro Mario Mutarelli, ecco. Quindi ho apprezzato molto la voce, io personalmente ho capito poco. Ecco, infatti se lo standard della comunicazione alla quale i consumatori e i risparmiatori devono adattarsi è questo, insomma abbiamo di che lamentarci, direi. Quindi in sostanza Pedone è che io faccio un investimento, sul contratto ci sono delle condizioni, se queste condizioni cambiano io devo andare alla Posta e vedere affisso un manifesto allo sportello per rendermi conto del cambiamento di queste condizioni. Ho capito bene? Diciamo, questa è la difesa legale che le Poste hanno sempre fatto, ma diciamo che è sempre stata smentita, come dicevo prima. Sostanzialmente si rifanno a questo cambiamento del foglio informativo. Il dato però giuridico più rilevante di questo aspetto che cita questa risposta è il fatto che, a prescindere dal fatto che la signora probabilmente non ha ricevuto nessun foglio informativo, ma al di là di questo, ciò che vale è il titolo che ha in mano. Se questo titolo appunto era riferito ad una precedente emissione è un problema delle poste che dovevano comunicarlo, quindi è come dicevamo prima, è un errore materiale che, come ha riconosciuto le poste, per errore gli è stato consegnato questa cosa alla signora. Il problema è chi paga per questo errore, certo. Non è esattamente colpa della signora. Insomma, carta canta. Carta canta, esatto, come faccio sempre io, bisogna scrivere. Tra l'altro, invece, sarebbero anche moltissime le persone che hanno accettato la proposta di Poste Italiane facendosi liquidare una cifra molto inferiore a quella che si sarebbero aspettate, e chissà se queste persone sono nel diritto di, a questo punto, rivendicare qualcosa. Andrei subito a sentire le testimonianze dei nostri ascoltatori. Allora, andiamo a Genova, che ci sta aspettando Enrico. Buongiorno, benvenuto. Enrico, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ci dica. Allora, il mio è un caso forse leggermente più articolato. Io possiedo una serie di buoni postali molto vecchi, cioè emessi dall'84 in poi. Mm-hmm. Adesso, su questi buoni dell'84, almeno su questo, quello che ho in mano, è apposto un timbro che varia diminuendo naturalmente i tassi che erano prestampati sul titolo. Sì. Io naturalmente, visto che c'era un timbro, ho detto il contratto è stato variato, quindi al momento della sottoscrizione evidentemente vale già quello del timbro. Sì. Quindi mi sono fatto una liquidazione del buono utilizzando i tassi apposti, i tassi modificati. Sì. E mi viene una certa cifra. Mm. Ora questo, di cui non buono, essendo dell'84, è 250.000 lire. Mm. Quindi il dubbio qual è, Enrico? No, perché noi abbiamo parlato all'inizio del programma di una situazione precedente all'86, quando è intervenuta una normativa che ha legittimato la variazione degli interessi. Pedone, possiamo sentirla subito e chiarire immediatamente la faccenda di Enrico, la sua fattispecie, allora, ricade in quella... Dovrei vederlo meglio, ma certo, ad occhio, da quello che dice il signore, questo è un caso in cui valgono le condizioni modificate, perché sia perché è prima dell'86 e quindi anche qualora non ci fosse un timbro, ma prima dell'86 sono state variate in forza di legge le serie, e anche se fosse dopo, laddove si ha un timbro, un buono che riporta certe condizioni, ma un timbro che le modifica, le cambia. Il timbro che le modifica comunque è valido anche dopo l'86. Il caso invece della signora è un caso dove non c'è il timbro, quindi lei ha delle condizioni ed è un caso diverso. Certo. Per il signore, posto che poi dovrei vederli, quindi diciamo do un'indicazione generale, ma per il signore, dal fatto che mi ha detto che è dell'84 e che c'è il timbro, mi sentirei di dire che ha fatto bene ad accettare le condizioni modificate, perché quelle che valevano. Chiedo un minuto di pazienza ad Antonio da Ravenna, perché vorrei dare la precedenza ad Angelo dalla provincia di Milano, ancora sul caso che stiamo trattando questa mattina. Antonio forse voleva lamentarsi di un altro aspetto, quindi Angelo prima. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, niente, io volevo appunto chiedere se si poteva fare qualcosa contro questo abuso delle Poste Italiane, perché mia moglie, in modo molto previdente, come tutte le donne sanno fare, anni fa ha sottoscritto, ha fatto dei buoni fruttiferi, veramente non ha fatto solo quelli, ne ha fatti altri, anche intestata alle figlie e ad altri, comunque ha intestato a me e a lei dei buoni fruttiferi a scadenza di 30 anni. Sì, in che anno? Nel 1985 deve essere stato il primo. Dietro non c'hanno timbri, non hanno niente, c'è solo quello che poi dovrebbe essere il contratto con segnati rendimenti che dovrebbero essere. Dai nostri calcoli, ai primi mesi del 2015, il primo che scade dovrebbe valere 7.000 rotti euro. Perché era un buono postale di 30 anni fa di 1.000.000 di lire. Qui invece le poste quanto le vogliono dare? Invece noi abbiamo fatto questi qua perché poi mia moglie ha pensato quando tra 30 anni dovremo andare in pensione, abbiamo qualcosa. Comunque siamo andati a informarci all'ufficio postale perché avevamo bisogno. Sintetico, Angelo, forza? Quindi sì, le danno 4.000, quanto? 4.000 e qualcosa. Lei se ne aspettava 7.000. 7.000 e rotti. Questo dal primo, sottoscritto nel 1985, per il quale quindi Pedone a spanne così le Poste hanno il diritto a fare questa modifica. Hanno ragione le Poste, è veramente una cosa, io capisco il che è frustrante, che è momento, scandaloso, quello che si vuole, però ecco, hanno ragione loro. In questo caso hanno ragione loro. Nel caso in cui invece Angelo, perché ha raccontato che sua moglie ne ha sottoscritti diversi, tanti, donna previdente eccetera, fossero stati sottoscritti in anni successivi e le Poste, se non hanno comunicato nulla, non hanno il diritto di fare nessuna variazione dei rendimenti. Se non hanno apposto il timbro, ecco, il timbro nel buono. Speriamo di averlo chiarito per i nostri ascoltatori. Ce la faccio l'ultima domanda al volo, Nicoletta? Caspita, Antonio da Ravenna. Vuoi non andare a Ravenna? Antonio, buongiorno. Buongiorno. Vede che si schiarisce la voce, quindi resti con noi anche nella seconda parte della trasmissione, perché l'ho beccata. Ma perché lui si è un po' emozionato a parlare con noi. Antonio, dica velocemente che stiamo chiudendo questa parte. Va bene. No, io non sono contento per i buoni fruttiferi. Sì. Hai capito, fatti prima del 2011, dove mi dicevano insomma esenti da tasse, cioè invece so se sia stato Monti, eccetera, ha messo dell'un per mille. Hai capito? Ho fatto un contratto, hai capito? So, 1000 euro sono diventate 999 così di botto. Sì, sì, lei dice, insomma, magari 1492, hai capito? Antonio, grazie. Qua in questo caso Alessandro Pedone interviene la mini patrimonialina. Sì, questo non vale solo per i buoni, ma per tutti gli strumenti finanziari. Certo. Quindi è un problema, diciamo, di mini patrimoniale introdotto da Monti e vale per certo, tutto, anche per i conti di deposito. Un'ultima domanda, Pedone, poi la salutiamo. Per chi ha già liquidato l'importo del bono fruttifero postale, anche se il rendimento era drasticamente ridotto rispetto alla promessa iniziale, secondo lei può tentare di... Va visto cosa gli hanno fatto firmare. Non si può dare una risposta generale, perché le Poste, sapendo di essere in difetto su questa cosa, spesso fanno delle liquidazioni con delle firme, diciamo, un po' compromissorie. E quindi bisogna capire che cosa hanno firmato. Bene, la nostra trasmissione è aperta a Poste Italiane qualora volessero intervenire per chiarire naturalmente la loro posizione su questa vicenda. Voi fate attenzione ai documenti che avete in casa, se avete tutti i timbri o se non li avete, perché è importante questa differenza. Qualora nessun operaio delle Poste, impiegato delle Poste, vi abbia posto il timbro appunto sul documento dei rendimenti del vostro buono fruttifero postale, avete il diritto ad avere l'indennizzo, il risarcimento, il totale valore del vostro investimento iniziale. Grazie ad Alessandro Pedone, buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata. A presto. Cuore e denari. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Patata, patata. Apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Nella conca! Svedese! Muovi! Padocchi, è lei? Eh sì, l'avevamo anticipato, parliamo della voce, che ci piace o no, è un po' il nostro biglietto da visita, che dici Deborah? Sì, perché ci distingue, ci rende più magari meno credibili. Magari se accende il microfono si sente anche meglio la mia, ecco. Perché sarà capitato anche a te, anche a voi che ci state ascoltando, magari di smascherare proprio dal tono della voce una bugia. E poi lo sappiamo bene, con la voce possiamo conquistare, sedurre, convincere. Quindi è uno strumento molto potente che dobbiamo imparare a usare, proprio come si fa come uno strumento musicale. Molti di noi, ce lo state già scrivendo, ne vorrebbero una diversa e se ne fanno un cruccio, e se questo è il vostro problema fateci sentire la voce che non vi rappresenta e non vi piace all'800 24 00 24, perché qualcosa si può fare per aggiustare, diciamo così, la voce. Ma l'argomento che più mi preme oggi di parlare insieme a voi, al nostro ospite che è un grandissimo esperto, che è tornata a trovarci, siamo molto contenti, della salute della voce, perché anche lei ha un benessere, un malessere. Ad esempio può capitare che si abbassi all'improvviso, che diventi roca, che sia intermittente, che manchi e poi un po' si ripigli, no? Che si spenga nel corso della giornata. Ogni riferimento, non ridere, non è puramente casuale. Non sono poi così maliziosa come tu ritieni. Allora, per chi invece la voce la usa per lavoro, il rischio di consumarla, di sforzarla, di sottoporla a uno stress è davvero reale. Allora oggi affideremo al professor Franco Fussi, che è tornato a trovarci, la nostra voce. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Nicoletta. Prendo fiato, foniatra e otorinolaringoiatra, responsabile del centro foniatrico di Ravenna. Professore, lei ci aiuterà ad ascoltare la nostra voce con orecchio clinico, direi, no? In questo sì. caso. E quindi noi possiamo invitare i nostri ascoltatori a chiamare il nostro numero verde, a parlare un po' con noi, a raccontarci anche un fatto. Non so, oggi sono andata a prendere il caffè ed era buono, poi ho incontrato il mio amico Mario e con lui abbiamo fatto due chiacchiere per andare in ufficio. Ecco, basta questo, no, professor Fussi? Per dare al professor Fussi qualche elemento per dire se la stiamo sforzando, se stiamo respirando adeguatamente, eccetera. La nostra voce, dicevamo, ci dà a volte delle delusioni, un po' come, no, i buoni postali. Sentiamo la nostra scheda. Hai bisogno di schiarirti spesso la voce? Quando parli ti capita di avvertire bruciore alla gola o senso di tensione al collo o ti sembra che ti manchi l'aria? Quante volte negli ultimi mesi sei rimasto rauco o senza voce? E per quanto tempo? La tua voce ha perso tono e intensità? Ti sembra più piatta, monocorde, stanca? 800 24 00 24, se vi riconoscete, se volete aggiungere qualche segnale, qualche sintomo di malessere, di malfunzionamento o perché no di benessere della vostra voce. Professor Fussi, intanto, da dove arriva la voce? Pensiamo spesso alle corde vocali e solo a loro, ma c'è dell'altro. Per produrre la voce abbiamo bisogno di tre elementi: un motore, un carburatore e della benzina. È così? Giustamente, perché come dicevi tu, le corde vocali sono soltanto il motore e noi per parlare abbiamo un sistema fonatorio che è composto da un fornitore di energia, di benzina, che è la pressione aerea e che quindi gestiamo attraverso la nostra respirazione. E poi abbiamo il motore che include le corde vocali che vengono appunto mosse e fatte vibrare dalla pressione aerea, e però abbiamo bisogno anche di un carburatore, cioè di un amplificatore del nostro suono che viene generato dalla vibrazione delle corde vocali e che è costituito dalle nostre cavità di risonanza, che sono tutti gli spazi aerei contenuti sopra al piano delle corde vocali, e comprende quindi lo spazio della faringe, lo spazio della cavità orale e lo spazio della cavità nasale. Funziona un po' appunto come da amplificatore di sistema, è come se noi prendessimo una chitarra e ne tappassimo l'orifizio d'ingresso alla cavità di risonanza, alla cassa di risonanza, e facessimo vibrare una corda, e il suono che abbiamo è debole perché il suono verrà amplificato nel momento in cui passa attraverso questa cassa di risonanza che funziona da intensificatore di armonici. Allora, tutto chiaro, sai che scoprire che cosa c'è, quanto lavoro c'è dietro all'emissione della voce viene da stare un po' zitti, forse, no? Converrebbe. A proteggerla in qualche maniera, tutelarla, sì. Abbiamo in linea con noi Maurizia che ci chiama da Napoli, intanto sentiamo subito la sua voce. Buongiorno Maurizia, benvenuta. Ciao, io sono Maurizia, non sono di Napoli ma vivo a Pozzoli e ho una voce. La nostra che Rosa ci ha fatto uno scherzetto. Comunque, va bene. Maurizia, è lì vicino. No, perché ci ha messo, ha detto Maurizia da Napoli e noi così l'abbiamo presentata, ma per noi può abitare ovunque, l'importante è che ci chiami. Certo. Io fin da quando ero ragazza non sono mai riuscita a fare uno scherzo telefonico, cosa che era molto in auge quando ero ragazza. Oggi ho 58 anni, per cui diciamo che io ho vissuto tutto il periodo durante il quale il telefono veniva usato per quindi, amori, perché per tutti la riconoscevano amori, Maurizia? Tutti, non sono mai riuscita a fare uno scherzo telefonico. Senta, mai. Facciamo così Maurizia, si tolga questa cosa. Lei nel corso della telefonata, tanto della nostra puntata oppure anche delle puntate prossime, chiami noi, faccia uno scherzo a noi, così si toglie questa soddisfazione e noi faremo finta di non conoscerla. Intanto, benissimo. Professor Fussi, grazie Maurizia. Che cosa ha di così particolare la voce di Maurizia? Ma la sua voce è semplicemente una voce ben proiettata, come molte persone delle campane, diciamo, quindi che sa porgere, sa proiettare bene, ma quello che probabilmente non la fa la fa distinguere sempre da chi la ascolta e quindi non riesce a ingannare è la sua non capacità di modificare il suo timbro e la prosodia, quindi viene riconosciuta dalle caratteristiche del timbro che è personale di ogni persona e che però io posso saper mascherare facendo per esempio una voce più nasale oppure facendo una voce un po' più soffiata, più modificare, no, l'atteggiamento timbrico delle mie mie cavità di risonanza e anche della vibrazione delle mie corde vocali per simulare un timbro e una qualità vocale che non è quella mia consueta con cui tutti mi conoscono. Ma questi esercizi, camuffare un po' la voce, fa bene alla nostra voce o in qualche modo è una sorta di stress? No, sicuramente la capacità di modulare, no, le attività timbriche della propria voce, anche quindi la gestione delle proprie corde vocali è un vantaggio, nel senso che io posso dinamicamente modificare i miei comportamenti vocali al bisogno a seconda delle necessità del momento. Ad esempio, se fossimo una sera a cena io e te, potrei parlare in maniera molto più morbida e molto più calda, ampliando più lo spazio faringeo e quindi a rimanere nell'ambito di una conversazione più intima. Se invece devo proiettare la mia voce in distanza per farmi sentire ad un pubblico che è a 10 metri di distanza da me e non ho un microfono, tendo ad avere un altro atteggiamento che è più economico da un punto di vista dell'utilizzo delle corde vocali e nello stesso tempo migliora la mia udibilità in distanza senza affaticare il mio organo vocale. Professor Fussi ci ha convinto, veniamo a cena con lei, vero Debra? Veniamo in coppia. Come mai ci siamo soffermate di più su quella parte? Cuore e denari. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E noi torniamo ad occuparci della nostra voce per scoprire come utilizzarla al meglio, come preservarla, proteggerla e non farla sparire, perché di questi tempi, professor Fussi, che è ancora in linea con noi con la sua bella voce, è facile. Intanto, professore, ha sentito che anche il presidente è rimasto collegato con noi durante il GR, ha un po' la voce roca, rauca, se l'è schiarita un po'? No, perché mi avete scollegato. Comunque l'hanno scollegata al momento. Anche Napolitano oggi ha un po' di difficoltà. Allora, io vorrei insieme a lei, professore, riprendere un pochino la nostra scheda per dare una spiegazione a tutti questi piccoli e grandi disturbi che a volte avvertiamo durante la giornata o in particolari periodi dopo aver utilizzato magari a lungo la nostra voce. Ad esempio, è un classico, ce lo stanno scrivendo in molti, l'abbiamo sentito anche dal presidente, il bisogno di schiarirsi la voce. Sì, noi tecnicamente lo chiamiamo raclage, cioè il raschiare, lo schiarire appunto le corde vocali. Come raffinato. È francesismo. Praticamente cosa ci segnala? La sensazione di avere del muco adeso sulle corde vocali è abbastanza vischioso che ci dà la necessità appunto di muovere, schiarendo appunto le corde vocali per rimuovere questi depositi di muco dalla superficie delle corde vocali e avere quindi una voce più limpida, più regolare. Le cause possono essere varie, ad esempio il reflusso, chi soffre di reflusso gastroesofageo ha nel suo corredo sintomatologico proprio questo tipico sintomo che è il raclage, ma anche persone allergiche oppure persone con patologie croniche a livello bronchiale possono avere il raclage. Quindi può essere, mi scusi professore, anche una cosa dettata un po' dallo stress, dall'imbarazzo. Sì, sicuramente, perché noi prepariamo la nostra corda a vibrare in maniera periodica, cioè con un segnale, un suono pulito possibilmente, prima di affrontare una conversazione in pubblico dove appunto la qualità del suono vuole essere il più possibile regolare e pulita. La causa del raclage è poi comunque la disidratazione, in fin dei conti, che queste patologie possono causare sulla superficie delle corde vocali, quindi il muco normalmente prodotto dalle nostre mucose tende ad addensarsi e quindi a grumarsi sulla superficie delle corde e darci questa sensazione di dover appunto pulire la corda schiarendo. Quindi possiamo dire, se avete bisogno di schiarirvi spesso la voce, insomma, il raclage diventa un po' il vostro tratto distintivo, idratatevi. Basta l'acqua? Ci sono delle indicazioni particolari? È essenziale per tutto il nostro corpo, 2 litri d'acqua al giorno almeno, ma comunque quando siamo in ambienti particolarmente essiccati o polverosi, dove c'è appunto una scarsa umidità relativa dell'aria, magari anche utilizzare una garza, un fazzoletto di stoffa imbevuto di acqua e un po' sotto le narici e respirare da lì per circa 10-15 minuti, che è il modo più rapido per mandare acqua sulle nostre corde vocali e quindi idratarci, oppure utilizzare aerosol con acido ialuronico, che ha una forte azione idratante, e vitamina E eventualmente. Io ho provato una volta uno spray a base di acido ialuronico, mi era andata l'anno via scorso, la voce l'anno scorso e devo fatto. Dire sì, sì? Perché sì? A me una volta all'anno mi va via la voce, sì? E, professor Fussi, sa che ha funzionato? O forse sì, doveva ritornarmi? Probabile. No, ma comunque ha una forte azione idratante l'acido ialuronico, effettivamente, quindi mi aiuta a rendere di nuovo vibrante, diciamo, la mia corda. Quindi non era l'effetto placebo di cui abbiamo parlato ieri, Nicoletta. Anche se una puntata sull'effetto placebo io voglio farla. Ci piace, ci piace. Allora, dottor Fussi, un altro punto che abbiamo indicato nella nostra scheda, cercando di coinvolgere i nostri ascoltatori. Abbiamo chiesto: quando parli, ti capita di avvertire bruciore alla gola o un senso di tensione al collo, o ti sembra che ti manchi l'aria? Cosa indicano questi aspetti? Sono sintomi di disfunzione, nel senso, noi quando abbiamo un abbassamento di voce abbiamo due tipi di sintomi: i sintomi acustici, che sono quelli che sente chi ci ascolta, che quindi è la voce sporca o la voce velata o la voce stimbrata, quindi la raucedine in generale, oppure anche sintomi soggettivi, che sono proprio questi che sta citando, quindi la sensazione del velichio in gola, il bruciore, il sintomo, la secchezza, l'arsura, appunto il bisogno di schiarire, che sono tutti fenomeni legati a un eventuale attrito che i bordi delle corde hanno compiuto nella loro vibrazione per eccesso di pressione, perché quindi comunque le uso male, le uso in maniera, diciamo, ipercinetica, cioè comprimendo eccessivamente i bordi delle corde vocali, i quali durante la vibrazione sfregano, si urtano, si gonfiano, si irritano e ci danno questo segnale soggettivo di sintomatologia, di costrizione, di bruciore, appunto, di arsura. Professore, vogliamo che lei ci dia qualche consiglio per una buona manutenzione della nostra voce, soprattutto in questo periodo, perché sono tempi duri per le nostre corde vocali, ma anche per tutto l'apparato fonatorio. Allora, i due parametri principali in causa, i due fattori in causa nella problematica vocale sono, da un lato, il surmenage, cioè quanto la utilizzo durante la giornata, e dall'altro il malmenage, il come la utilizzo durante la giornata, e dovrei curare un po' tutti e due gli aspetti, quindi pianificare un po' gli impegni vocali professionali durante la giornata, per cui se sono un insegnante faccio 5 ore di lezione la mattina, poi pomeriggio magari faccio la casalinga e faccio fare i compiti ai bambini, mi metto a urlare, poi tardo pomeriggio vado magari a far parte di una corale, poi la sera esco con gli amici, insomma quella quota oraria di un impegno vocale diventa effettivamente gravoso. Accanto a questo devo però anche sapere se la mia modalità di utilizzo della voce è più o meno corretta nei vari stili, cioè nelle varie situazioni della giornata. E questo è possibile, vero professore, farlo? Perché c'è una sorta di contapassi holter delle corde vocali, non so come chiamarlo, un apparecchietto, ce lo spiega, una cosa molto carina. Sì, è una sorta di holter, lo chiamiamo dosimetro, che calcola praticamente, per semplificare, i chilometri che le corde vocali fanno durante la loro vibrazione durante la giornata. È praticamente un apparecchio che viene indossato tipo Walkman a marsupio, cioè una scatoletta che può essere inserita anche in una tasca, e c'è un piccolo rilevatore, un elettrodo che viene applicato sulla giugulo, sul collo, no, è invisibile praticamente, e misura appunto durante la giornata la mia attività fonatoria, quindi mi permette di vedere quanto ho fatto lavorare le mie corde vocali e anche il grado di intensità in cui hanno lavorato, quindi mi può misurare lo stato di affaticamento vocale o quando arrivo alla soglia di affaticamento. E quindi trovare una formula di correzione e anche di riabilitazione. Ma questo apparecchietto lo mettete solo voi, medici, oppure si trova anche... No, si trova, adesso sarà commercializzato ed è... quindi è proprio una novità, sì, una novità, sì, novità. È una novità, sarà commercializzato, è a cura dell'Istituto Politecnico di Torino, le ricerche che sono state fatte, ma esisteva comunque ed esiste anche uno strumento analogo che è stato commercializzato dall'estero e funziona in questo senso, insomma mi misura un po' e mi dà un pochino di un ragguaglio su quanto sto consumando, diciamo, la mia voce durante la giornata. Può essere, poi confrontiamo il contapassi delle corde vocali con quello vero e ci rendiamo conto, sì, che le corde vocali hanno fatto chilometri e noi abbiamo fatto pochi metri. Teresa da Torino e poi Antonio da Napoli. Teresa, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Ho sentito tutto ciò che voi avete detto. Il mio problema forse è un po' diverso. Il mio problema è il tono della mia voce, che non sempre risulta gradita al prossimo. Perché? In particolare io ho dei problemi, non ultimo ieri sera con una delle due mie figlie, perché mi dicono che io ho un tono di voce che è sgradevole. E... Che cosa stava dicendo alle sue figlie? Quanti anni hanno? Perché questo fa anche la differenza, eh? Perché... Non lo so. Vabbè, è una cosa un po' lunga da raccontare, però mi dicono sempre che quando io parlo con loro, e sinceramente devo dire che mi è successo anche con altre persone, mi dicono che io quando parlo dico delle cose gentili, cortese, ma il tono della mia voce è tutt'altro. Ho provato anche a registrarmi la voce. E ma quello no, Teresa, guardi, io quando mi risento in radio proprio vorrei sotterrarmi, perché è proprio il risentirsi è terribile. Non so, Nicoletta, tu che cosa ne pensi, ma per me proprio, io ho una voce improbabile al mio riascolto, quindi... Professor Fussi, dove la mandiamo, Teresa, da Torino? Perché io mi sono accorta che ci sono tantissimi professionisti che si muovono intorno alle corde vocali, il foniatra, l'otorino, e poi c'è vocal coach, adesso c'è anche il vocologo e il logopedista, insomma, da chi si va? E chi sono allora, tutti questi... Per rispondere alla signora, diciamo intanto che comunque la qualità vocale e quindi la gradevolezza della voce è sempre un criterio molto soggettivo, perché a volte ci piacciono voci nasali o voci sporche, no? Pensiamo anche in campo artistico, come a volte voci non belle da un punto di vista classico e invece possono essere interessanti. Devo dire che probabilmente nella signora c'è un'intensità vocale elevata e un appoggio sulle vocali che magari può risultare non immediatamente piacevole, e quindi potrebbe fare dei corsi sia logopedici che di dizione per migliorare la gestione della sua modalità di emissione vocale, quindi renderla più accattivante, se non altro, perché non è comunque sgradevole. Sulle patologie sulle figure professionali che mi stava elencando, allora possiamo chiarire. Intanto l'otorino è quello che fa la diagnosi otorino-laringoiatrica, quindi una diagnosi essenzialmente organica, mentre invece il foniatra è uno specialista sempre medico che fa una diagnosi sia organica che però anche e soprattutto funzionale, quindi di come viene utilizzato lo strumento al di là della patologia che è o meno presente. Poi esiste il logopedista, che invece è un laureato in appunto logopedia, che è un tecnico, diciamo, della riabilitazione, comunque un medico che fa la riabilitazione delle problematiche legate al linguaggio e anche alla voce, quindi la riabilitazione vocale su diagnosi del medico foniatra o del medico otorino. Poi abbiamo il vocal coach, che invece non è una figura sanitaria ma è una figura educativa che si preoccupa delle modalità di comunicazione della persona, che può essere un artista, un cantante, ma può essere anche un conferenziere, una persona che ha bisogno di imparare delle tecniche di gestione e di persuasione nella sua produzione vocale. Quindi è quello che ti guida a trovare quali sono le strategie migliori per rendere più efficiente e più efficace la tua voce in base allo stile e al modo che tu utilizzi per la tua professione. Quindi se sei un cantante rock o se sei un cantante lirico, il vocal coach agisce ovviamente in maniera diversa, mentre invece il maestro di canto è quello che ti educa ad impostare correttamente la tua voce cantata. Il vocologo non è una figura professionale a sé stante, ma è soltanto una specializzazione, una sorta di formazione a cui hanno accesso, ed è sempre universitaria, a cui hanno accesso figure professionali di ambito diverso, per cui può essere vocologo nel senso di esperto in vocologia e non vocologo come professione, ma esperto in una materia che è la vocologia, sia il foniatra, sia l'otorino, sia il logopedista, sia il maestro di canto, che hanno però fatto questo corso che è un corso universitario. E quindi esiste una sorta di specializzazione. Tu lo conoscevi il vocologo? No, anche... stamattina tante cose nuove abbiamo allora preso. Dove andiamo? Andiamo? Andiamo da Antonio da Napoli, docente di canto, per cui ci aspettiamo naturalmente una considerazione estremamente professionale. Una cantatina anche, Antonio, se vuole. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti e saluto anche il professor Fussi, del quale ho grande stima. Volevo solo dire che purtroppo, almeno qui al sud, siamo contornati da persone che si ergono a maestri di canto, ma purtroppo fanno solo dei guai enormi proprio per quanto riguarda la voce. E questo dipende, secondo me, assolutamente dal fatto che c'è poca conoscenza anche a livello proprio foniatrico, a livello anatomico dello strumento che si usa, insomma. Questo proprio per dire che tra i miei allievi mi ritrovo delle persone che non sanno che cos'è il diaframma, che cos'è l'ispirazione, lo so, ci vuole un po' di informazione, Antonio, un po' di cose di base vanno sapute. Anche a Cuore Denari abbiamo parlato a lungo dell'importanza del diaframma, insomma dell'ABC, del respiro e di come utilizzare la voce, lo stiamo facendo anche oggi. Ma professor Fussi, iscrivendosi ad un corso di canto, si possono, se non adeguatamente impostate, si possono fare dei danni? Quali sono i rischi e gli errori più frequenti? Ma ci sono sicuramente maestri migliori, maestri meno attenti, nel senso che dal punto di vista dell'educazione alla respirazione, all'uso dei registri, al potenziamento delle cavità di risonanza per proiettare la voce, magari possono avere qualche difficoltà, e a volte anche nella classificazione della voce, quindi decidere se appunto il soggetto è soprano, mezzo soprano, contralto, tenore, baritono, basso, quindi anche saper assaggiare correttamente l'ambito di estensione del soggetto, proprio per non portarlo a forzare la sua laringe e quindi a creare poi dei danni. Però in genere, insomma, comunque insegnanti di canto hanno una base, se sono tali, nel senso che hanno appunto il non dovrebbero fare danni, dai. Non dovrebbero fare danni, dai. Invece noi a volte facciamo danni magari autocurandoci un calo di voce, quando la nostra voce diventa roca. Ci dà un paio di consigli per affrontare questa stagione in cui molte persone perdono proprio la voce a causa di un'infreddatura, un raffreddore trascurato, un mal di gola che si trascina? Andiamo di erisimo? Ma allora l'erisimo è un buon antinfiammatorio, ma dovrebbe essere utilizzato soltanto appunto quando c'è uno stato infiammatorio, non lo utilizziamo come prevenzione, anzi addirittura potrebbe irrigidire le corde vocali, quindi lo utilizziamo solo nel momento in cui abbiamo una raucedine legata a uno stato infiammatorio. E se c'è lo stato infiammatorio, allora preferiamo fare anche l'idratazione della laringe con l'aerosol con l'acido ialuronico. Se le corde sono gonfie, facciamo gli aerosol magari anche con i corticosteroidi in maniera diluita, preferiamo i suffumigi se invece le corde sono infiammate e disidratate, quindi suffumigi che possono essere banalmente dal cucchiaino di bicarbonato e 2 cucchiai di camomilla romana, camomilla amara, oppure con dei balsamici. E poi adottare delle misure preventive, quindi dei rinforzanti immunitari nella stagione più fredda, che possono andare da rimedi naturali come l'echinacea, oppure che ci piace, c'è anche, sì. Anche e la cara vecchia sciarpina non la mettiamo più, dottore? Ma la vecchia sciarpina senza eccessi, nel senso che ecco, non andiamo magari scollate in giro per la strada eccessivamente, però nello stesso tempo non stiamo neanche imbacuccati continuamente, perché poi è la prima volta che togliete la sciarpa. Eccola lì. Guardate. Allora, Lida ci chiama da Firenze, non riusciamo a farle intervenire, può salutarci e dire che ci seguirà anche domani. Lida, faccia i saluti. Certo. Vi ringrazio, buongiorno. Comunque il mio discorso è molto breve. Io ho a che fare con persone sorde, volevo sapere se parlando troppo forte posso danneggiare le mie corde vocali. Poi non ho avuto mai problemi di voce. Lida, riascolti la puntata, troverai i consigli del professor Fussi, che noi salutiamo e ringraziamo, e noi torniamo con le nostre voci domani. Altro che. Cuore e denari.